La via del teatro on Broadway, George Benson, la nostra sigla, come ben sapete, ogni venerdì puntuali 8:04 minuti si comincia, anzi si continua, perché già abbiamo dato anticipazione in giornata d'esordio, cioè mercoledì 13 con Nicola Bonazzi, per questo titolo molto particolare. Da grande voglio fare l'aggettivo. Intanto il protagonista sul palcoscenico Andrea Santonastaso già è partito con gli aggettivi. Io a calcio ero fortissimo e io ne sono convinto per determinazione, passione e talento. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, mi piace salutarti già ridendo. Che mi dico... Bonazzi ha fatto la stessa identica cosa. Sì. Ho iniziato facendo il paragone dei gemelli del gol, in questo caso a teatro, e lui ha iniziato a ridere, fa: guarda, non so se è stata casuale questa tua presentazione, ma io e Andrea abbiamo giocato a pallone assieme più volte. E quindi sì, guarda, allo stesso modo ha iniziato con un sorriso. Per cui... Ma guarda, è bello perché tra l'altro facendomi parlare di questo, sorridere su questo, già mi stai portando in un mondo che è quello dei ricordi, che guarda, a caso appartiene tantissimo allo spettacolo, a quello che stiamo facendo al teatro, all'Itici Teatro, insomma, quindi al ricordo. Ha un titolo molto particolare, perché sai, l'aggettivo ha diverse accezioni, può essere un accrescitivo, può essere una critica, può essere insomma declinato in mille modi, ma lo stesso Nicola mi ha detto: io non voglio svelare, per cui partiremo da motivi di conversazione con altri contenuti. Intanto grazie Andrea per questa colazione assieme al Teatro dell'Argine, la curatela Itici Teatro, il palcoscenico a San Lazzaro in via Rimembranze 26. Allora, per quanto riguarda questo percorso, abbiamo trovato altri due spettacoli in precedenza, quello Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, poi dedicato a Pertini in seguito, l'attinenza con il disegno e tutto quello che può portare l'arrivo ad A grande voglio fare l'aggettivo. Ti chiedo, si può parlare di trilogia in questo caso? Guarda, sì, a tutti gli effetti. In realtà ogni volta il motivo era nuovo per fare lo spettacolo, per creare qualcosa da portare in scena, però il motivo vero credo che sia dovuto al fatto che Nicola ed io lavoriamo benissimo insieme, ci troviamo molto molto bene, abbiamo una sintonia, ci sgridiamo, ci riprendiamo, ognuno dei due secondo me ogni volta che realizza questa esperienza porta a casa qualcosa, è come se, come due fratelli che si consigliano, si danno suggerimenti, crescono. Credo che sia quello il segreto, e per questo si può decisamente parlare di tre spettacoli legati da questo più che dal tema trattato, perché nei primi due il legame era diretto, il nome era quello di Andrea Pazienza che univa le due cose, in questo caso invece il legame è più personale perché ha a che fare, appunto, ti dicevo, col mondo dei ricordi e con l'amore che però abbiamo entrambi per Federico Fellini, che sì, è poi quello che viene omaggiato dal testo. E infatti c'è una parte che è filo conduttore, che dà, se vogliamo, poi anche un'attinenza a questa biografia, che tra l'altro è interpretata in maniera molto particolare, con il ricordo e allo stesso tempo con la passione e, perché no, anche qualcosa di più per Andrea Santonastaso, che è il disegno, con Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, Andrea Pazienza a seguire, dedicato a Pertini, che è stato anche protagonista per quanto riguarda Strisce a fumetti, metti di grande successo. Ora si cambia linea, ma per quanto riguarda il palcoscenico possiamo svelare qualcosa, nel senso che sarà impegnato nuovamente in questa veste, Andrea? Quella del disegnatore, dici? Allora, sì. Guarda, sì e no, cioè nel okay, senso sì, alla fine diciamo che non si resiste e che si può No, perché no, vabbè, ma è una cosa stupenda, cioè, perché veramente hai una capacità che è messa insieme, a parte che mi scatena un'invidia tremenda, perché oltre a non saper disegnare, io questa idea di portare un percorso iniziale, poi in seguito un what if, una sliding doors che ti porta completamente d'altra parte. Come ti ho detto, io volevo fare il cestista e poi adesso... Anche così, cioè nel senso che vuoi fare una cosa, poi finisci per farne un'altra, però in realtà quella parte lì rimane. Qui sì, c'è un legame e il disegno comunque rientra nei racconti e anche in pratica, in scena, perché poi io continuo a pensare di essere noioso quando mi si vede disegnare, ma Nicola Bonazzi, ecco appunto quello che dicevo prima, vedi, ci si consiglia come i fratelli, continua a dirmi no, fallo perché ti assicuro che è bello da vedere, quindi lo faccio volentieri quando capita. qui però, guarda, le sorprese sono veramente tantissime, quindi io capisco Nicola che non ti vuole svelare molto, perché certo. Chi viene a vedere, ieri sera è venuto a vedere lo spettacolo tra i tanti, c'erano amici tipo Giorgio Comaschi, amico, persone che conosciamo bene entrambi, e non ho mai visto Giorgio così coinvolto come alla fine dello spettacolo, perché le sorprese sono tante e forse neanche lui si aspettava di essere così coinvolto così tanto in quello che vedeva. Quindi insomma, venitemi a vedere, perché può essere un'occasione per farsi sorprendere da fuori e da dentro, perché poi c'è una parte di noi che viene risvegliata inspiegabilmente da quello che facciamo poi all'esterno. Ma guarda che quando io faccio questi dualismi, anch'io avevo un'idea, anch'io avevo dei progetti, poi li ho mantenuti seppur cambiando completamente dal parquet al microfono, per dire, passando per altri percorsi che mi hanno portato a tutto ciò. Non è un'unicità. Secondo me ognuno di noi, con il teatro e con tante altre espressioni artistiche, basta solo focalizzarsi su questo, e secondo me tanti hanno questa caratteristica di avere svoltato in un modo o nell'altro, ma di rimanere, per così dire, dare continuità con la passione, con un'idea di professione iniziale, all'arrivo di quella che dà una continuità nel nostro quotidiano. Non c'è, ma nello stesso tempo c'è. Ecco, per cui questo guarda, non è... guarda, ti dico che chiudo questo breve excursus che abbiamo fatto su noi stessi. Te lo chiudo con una frase, questa volta sì te la dico, con cui comincia lo spettacolo, nel quale io dico che ci si interroga continuamente sul proprio lavoro, sulla propria famiglia, sulla passione per, sì, il suo per il proprio lavoro, e sul ruolo che la famiglia ha avuto su questa passione. Ecco, queste cose si legano l'una con l'altra e in questo spettacolo indissolubilmente, grazie tantissimo al lavoro della scrittura di Nicola Bonazzi, perché adesso, visto che siamo tra di noi, te lo posso dire, sì, Nicola è veramente un grandissimo non autore. Non sono così in famiglia, ma consideratemi un amico, ecco, perché esatto, ti puoi confidare in questo. No, ragazzo. Bonazzi è veramente un autore magico, oltre che regista, proprio autore dal punto di vista della scrittura. C'è una magia in quello che fa e che scrive, complicata a livello di preparazione, perché la memoria di tutti fa fatica, soprattutto quando si va in scena, insomma, l'emozione fa un po', cerca di frustrare un po' la memoria, ma quando ci si riesce poi ci si rende conto che quello che scrive Nicola è perfetto, quindi sì, devo dire, insomma, onore al merito. Tu non dirgli che è un ottimo redattore per quanto riguarda la radio, perché guai, la conversazione regolare con lui per quanto riguarda il palcoscenico di TC Teatro a San Lazzaro, e spesso è presente nelle mie dirette, è veramente un co-conduttore, se non che conduttore ideale, per i contenuti, sì, per il motivo di eloquio, per cui insomma ne sono sempre ben felice quando ho motivo di presentazione, di contenuto. Lo faremo diventare, così gli diamo Santo Anastaso. Gli daremo un aggettivo. Lo facciamo diventare il Forbito Bonazzi. Il Forbito Bonazzi, ma del resto lui lo è. Che sta benissimo, questo... sposato alla perfezione con quell'aggettivo. Possiamo mettere un po' di musica, certo. I'm Falling con Robin Hitchcock, e torniamo tra pochissimo, come ho detto, con Andrea Sant'Anastaso. Da grande voglio fare l'aggettivo. ITC Teatro, a tra poco. There's a thin line between being ill, that's what Julia told me, and I know she always will. I'm falling now, I'm falling. There's a thin line between what you are and what you are. fare sia sul parquet che in un campo da calcio di cadere. I'm falling Robin Hitchcock, ma noi siamo pronti a rialzarsi in aiuto e recupero, soprattutto sul palcoscenico di ITC Teatro via Rimembranza 26 a San Lazzaro. Da grande voglio fare l'aggettivo, la regia di Nicola Bonazzi con l'interprete attore sul palcoscenico Andrea Santonastaso e questa mattina in scena su Radio Città. Fujiko, ti piace questo parallelismo e la colonna sonora che ho dato, Andrea? Sì, poi mi piace tutto il legame che hai fatto, ma quello che mi piace di più è l'in scena su Radio Città Fujiko. Grazie. Quello mi piace molto. Grazie, un caloroso abbraccio. Allora, per quanto riguarda, hai parlato di un'idea di radice anche in tutto ciò, è una Marcord, per citare anche Fellini. Tu sei informato bene sia sui fatti che nel concreto di un percorso di radice che va anche dalla famiglia, soprattutto dalla famiglia. Ci puoi dire qualcosa di più, Andrea? Allora, quello che vi posso dire è che la mia famiglia è una famiglia artistica, tra virgolette o anche senza le virgolette, a tutti gli effetti lo è stata da sempre, lo è stata dall'inizio. La mia bisnonna, che poi biszia in realtà perché è zia di secondo o terzo grado, insomma, Elvira Notari, è stata la prima donna regista italiana del cinema italiano. Quindi, per farti capire, nello spettacolo si racconta questo, in un certo momento salta fuori, quindi per dire, insomma, risale a parte da lontano l'artisticità della mia famiglia, e ne viene fuori un ritratto completo, direi, anche in virtù del fatto che in mezzo a questa famiglia c'è stato qualcuno, mio nonno, che aveva poi inculcato in tutti noi un'enorme capacità o voglia di archiviare le cose, quindi i ricordi, quando poi hanno alla prova dei fatti delle tracce, quando queste tracce ci sono, si ritrovano e le si possono usare, dopo la memoria viene aiutata, si sente aiutata. Ecco, in questo caso il nonno è stato molto molto utile, magico, e quindi ti posso dire che la prima, la sera del debutto, mio padre è il pubblico e si è commosso. Non l'ho mai visto piangere tanto, proprio veramente era, insomma, bello vederlo, era poi di quel pianto che fa bene, quindi credo, certo, che mio papà, immagino, che ne ha 80, al momento ne ha 87, sia uscito di lì che ne aveva 22 o 23 di anni. Pensa cosa può fare il teatro, quindi lo consigliamo a tutte e a tutti, esatto, fa bene. Aggiungo anche alla pelle, sai, quelle cose lì, come una crema. Sì, anche se siamo bellissimi oltre che bravissimi, ce n'è sempre bisogno, visto che parliamo di aggettivi. Da grande voglio fare l'aggettivo, ho voluto esagerare anch'io. Sabato 16 dicembre, a seguire lo spettacolo, ci sarà l'incontro con i protagonisti, con Nicola e con Andrea, e quindi direi proprio che tra la presenza di Fellini con una Marcord, un percorso che in questo caso è più esteso, dove il protagonista Andrea racconterà questi percorsi, come ho detto, non unicamente incentrati su un aspetto, ma veramente in maniera omnicomprensiva, dalle radici fino ad arrivare ai giorni nostri e chissà anche oltre, ovviamente, sarà presente la caratteristica, la peculiarità grafica del disegno di Andrea, anche se in questo caso in maniera diversa rispetto al spettacoli di cui vi ho parlato più volte, Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, e in seguito dedicato a Pertini. E per quanto riguarda gli orari, che sono sempre un po' le date e gli orari un mio tallone d'Achille, questa sera è sabato alle ore 21, domenica 17 dicembre alle ore 16:30. Ho cercato di essere preciso, insomma, Andrea. Vi aspetto e il teatro vi aspetta, perché il teatro, con la T maiuscola o minuscola che sia, decidetelo voi, fa bene. Io, sì, nel mio teatro, piccolo teatro di Vignola, che si chiama Teatro Cantelli, ho messo una scritta, ho scritto "il teatro ci fa belli", è scritto lì, è diventato il simbolo, insomma, di quel teatro, ed è così, secondo me il teatro ci rende belli, ci pulisce, è una cosa bellissima, quindi andateci. Se poi magari avete impegni quei giorni, però durante la prossima settimana volete comunque andare a teatro, andate a teatro, a prescindere, durante questo Natale, fatevelo come regalo. Ed è un gran bel regalo. Da grande voglio fare l'aggettivo, a San Lazzaro, la curatela della Compagnia del Teatro dell'Argine. È sempre un grande piacere parlare con Andrea Santonastaso, al quale auguro una buonissima giornata. Grazie, ci vediamo grazie a teatro. A tutti. Grazie. Ciao. Never. never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Indeed, we are inclined to voice out our opinions, and secondly, within the frames of our dominions. To influence is nice, to force has no fruition. So take time out before your mouth makes your decisions. You should never, never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Never, no, never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Qua 8:22 minuti di questo venerdì in scena, è il 15 dicembre, penultima puntata per quanto riguarda il venerdì, il Breakfast Club di Radio Città Fujiko che vi porta a teatro. Da grande voglio fare l'aggettivo, è una produzione della compagnia Teatro dell'Argine, la regia di Nicola Bonazzi e con Andrea Santonastasio. Domani ci sarà, dopo lo spettacolo, l'incontro con la compagnia e con i protagonisti. Ricordo che ITC Teatro è in via Rimembranze 26 a San Lazzaro di Savena. Per quanto riguarda gli orari, questa sera e domani alle ore 21, domenica 17 dicembre alle ore 16:30. Un po' di funky con i Push per Soul Society Record. Torniamo in diretta dopo la pubblicità e avremo una protagonista per Radio Città Fujiko, in questo caso ex redattrice, ma lo è tuttora, dato continuità al suo lavoro con il teatro, di cui è grande, competente e appassionata. Si tratta di Ilaria Cecchinato, che ci racconterà di progetti legati a determinati modi di comunicazione e divulgazione per quanto riguarda appunto il palcoscenico. Sarà sui 103.1 a breve. Restate in frequenza con Radio Città Fujiko in scena.